Avrete notato, spero, avete notato come siano tolleranti e cortesi i clericali italiani quando si viene a parlare di convivenze, rapporti personali, argomenti affini. Saranno forse un po' rigidi sui principi, ma per quanto riguarda le applicazioni concrete non potrebbero dimostrare una maggiore buona volontà. Siano essi cardinali, prelati o politici di ambo gli schieramenti, come per citarne una a caso, quella gentile signora che grazie ai buoni uffici di Rutelli è stata traghettata dalla presidenza del Comitato Scienza e Vita alla candidatura nelle file dell'Ulivo e che Radio Popolare ha intervistato nel corso del microfono aperto di venerdì sera. E sono tutti costoro di una disponibilità esemplare. Le convivenze di fatto. Vabbè, sono rapporti che esistono, nessuno lo nega e nessuno intende negare ai loro protagonisti un certo numero di adeguati diritti. Gli esempi gli vengono naturali. Poter visitare il compagno in ospedale e venire informati sulla sua situazione sanitaria. E chi mai si opporrebbe? Conservare la casa, ma certo. La reversibilità della pensione, niente di più ovvio. Una qualche forma di comunanza dei beni. Solo uno stolto lo escluderebbe. E così via. L'unica cosa che a questi devoti ratzingeriani sta a cuore davvero, l'unico principio su cui non possono ad alcun costo transigere, a quanto sembra, è la difesa della centralità sociale e dell'unicità giuridica della famiglia, quella unione tra uomo e donna fondata, come si dice, sul matrimonio. Per cui, se di nozze gay non è nemmeno il caso di parlare, per la contraddizione che non lo consente, è ovvio che anche sui Pax sarà meglio soprassedere, visto che potrebbero essere intesi come una forma surrettizia di coniugio, e lo stesso vale naturalmente per le unioni civili e simili astrusità. I nemici della famiglia, dal punto di vista della Chiesa, sono scaltri e insidiosi, e non desistono dal proporre una serie di apparenti formule di compromesso dietro le quali si cela l'indomita volontà di scalzare dalle radici l'istituto familiare, quella società naturale che in quanto tale viene riconosciuta persino dalla Costituzione italiana. Ci sarebbe da discutere a lungo, naturalmente, sulla naturalità di un'istituzione che in natura di solito non esiste, visto che persino i nostri fratelli primati regolano le proprie convivenze secondo tutt'altre prassi e modalità, anche se lo schema prevalente tra i gorilla, quello che prevede un maschio dominatore anziano e una quantità di giovanotti frustrati e ansiosi di rivalsa e nel mezzo le femmine con il ruolo di premio della contesa, beh, non è un del tutto estraneo ai modelli antropologici correnti. Ma un dibattito di questo tipo, temo, non potrebbe portare da nessuna parte. È meglio limitarsi a osservare, forse, che quell'atteggiamento di fermezza sui principi e disponibilità sui casi concreti, per quanto possa apparire vicino agli ideali della carità cristiana, è viziato, oltre che da una sottile, sottilissima forma di ipocrisia, da un'assai più patente contraddittorietà. Non so a voi, ma a me sembra abbastanza chiaro che perché i singoli membri di una coppia di fatto possa essere riconosciuto un diritto qualsivoglia, lavoro, convivenza, debba essere registrata da qualche parte, e una convivenza registrata, non importa se all'anagrafe, dal notaio, in comune, in prefettura, l'automobile club, assomiglia a tal punto a un matrimonio che mai e poi mai un autentico seguace del cardinale Ruini potrebbe accettarlo. Con il che si ritorna defilato al punto di partenza, che ha dei diritti se li tiene ben stretti e chi ne è privo è invitato nel caso migliore a grattarsi. La contraddizione non imbarazza i cattolici del centro-sinistra più di quanto infastidisca i laici del centro-destra, visto che su questo argomento si possono sempre formare le più solide maggioranze traversali. Il che significa naturalmente credere che basti essere in maggioranza per imporre a tutti le proprie scelte di valore, che è una scelta di eticità dello Stato lontana le mille miglia da quel liberalismo di cui tutti oggi amano riempirsi la bocca. Ma prima dei nostri politici, si sa, è soprattutto quello di riempirsi la bocca con delle affermazioni abbastanza vaghe da non poter essere smentite dai fatti. Permettetemi infine una notazione erudita. il conduttore della trasmissione che citavo poco fa esordiva citando il noto aforismo di Enrico IV di Borbone, quello per cui Parigi valeva bene una messa, e chiedeva agli ascoltatori, si chiedeva, se quel prezzo si possa e si voglia oggi pagare per porre piede a Palazzo Chigi. Era ben inteso una domanda retorica a cui nessuno si guarderà mai da rispondere, ma guardateli bene in faccia i nostri 11 leader, compresi quelli che ieri a sottoscrivere il programma dell'Unione non sono andati, e capirete benissimo come la pensino. Di messe ne sentirebbero volentieri anche 3 o 4. E il guaio è che la controparte ecclesiastica in questi casi è meno tollerante di quanto appaia. Incassa di buonissimo grado le abiure e le concessioni relative, ma anche la sua disponibilità è un pochino interessata e non comporta la rinuncia ad armare la mano dei vari François Ravaillac, per citare il fanatico, come lo si definisce di solito, che nel 1610 pose fine alla carriera terrena dell'Enrico in questione. I tempi saranno cambiati, ma se fossi in loro ci rifletterei un pochino.